Now boarding. Now boarding. Welcome to the radio station. Time to at the drive. Guardavi solo me mentre cantavi Chinatown. L'orchestra ripeteva Shibidoo. Mi resta solo un disco per tornare giù da te at the drive. Bentornati agli ascoltatori di Radio San Donà 102 e 200 e agli amici di vogliovivereCosi.com. Questa è Now Boarding e un saluto da Francesco e da non Riccardo ma Lorenzo. Buonasera. Che ci fai qui? Buonasera. Perché voglio vivere così. No, vabbè, a parte la citazione dei nostri nuovi amici, insomma, ho ucciso Riccardo nella viuzza qua sotto perché ero un po' geloso e quindi sono voluto venire io a presentare questa puntata. Volevi riprenderti il tuo posto? Sì, certo. Quindi fai il supplente in questa sì, puntata? Sì, sto aspettando un incarico definitivo, ma sono in graduatoria. Bene, bene. E come ogni volta in cui arriva il supplente... c'è un po' di cacciara. Ospite sì. In studio questa volta è anche il pubblico, Marco, dal nostro blog. Sì, che sta urlando, ma i nostri microfoni non lo captano. Gli consentiamo di scrivere e basta. Ciao Marco. Non si sente niente, puoi solamente gesticolare se vuoi. Legatelo, fategli del male. Bene, puntata quindi con ospite in studio e non sveliamo ancora niente. Cosa dici? Ancora il telo sopra, quindi. Sì, sì, sì, ancora non sappiamo chi sia. Però abbiamo questo indizio con questa prima traccia che potrebbe darvi un suggerimento se siete sufficientemente ferrati in materia di musica pop. Ma anche no, ma anche se non lo siete non me ne frega niente. È un po' facile stavolta, quindi, però è particolare perché è il nome del gruppo puoi capovolgere lo stesso e anche il titolo della canzone. Ma quante ne sai? Pensa a te. Sono gli ABBA con SOS. You gave me nothing, that's insane. Allora, gli ABBA sono svedesi, quindi se non lo sapete, insomma, questa era la traccia di presentazione puntata sulla Svezia. Non solo, ma un membro degli ABBA, un membro femminile, è di Jönköping, che è una cittadina svedese, quindi fate 2 più 2 uguale 4 e otterrete la meta di oggi. E anche l'ospite di oggi, che è, presentati, Marta. Ciao Marta, benvenuta. E quindi lei è stata in Svezia, ma partiamo con il terzo grado, Francesco, perché io sono un po' nuovo a questa nuova scaletta. Ma guarda, io, a costo di bruciarmi parte del terzo grado, voglio dire che sono contento di questa puntata, perché abbiamo avuto dottorandi, gente che è andata all'estero per specialistiche, per lavoro, gente che si è fatta una famiglia all'estero. Finalmente abbiamo qualcuno che è andato all'estero per fare nulla. Una mazza. Alcuni mesi di festa, di vacanze. Finalmente abbiamo il primo. Lei non è d'accordo, perché sta lavorando 12 ore al giorno come pizzaiola in Svezia mentre studia. Ma no, dai, primo Erasmus della stagione, dovevamo un attimo almeno prenderti in giro. Una puntata un po' classica, tornano i presentatori soliti dell'anno scorso, e poi l'anno scorso beccavamo tanti Erasmus. Sì, invece sei la prima, benvenuta. Grazie. Beh, dai, terzo grado. Sì. Età intanto? 21. Quando sei stata in Svezia? Sono partita verso agosto e sono tornata a dicembre, per un totale di 4 mesi. Ok. Abbiamo detto, ricordami la pronuncia, Jönköping. Io l'ho detto alla cinese. Jönköping. Lo pronunciare normale, tranquillo. Sino a Shanghai. Alla svedese o alla cinese. Scritto Jönköping con la K, però. E le due umlaut, detto alla tedesca, sulle due O. Ok, cittadina, dove siamo più o meno? In che zona della Svezia? Siamo, diciamo, un pochino sotto la metà, a circa 300 km verso sud da Stoccolma. Ok. Per quanto tempo? 4 mesi. Ok. E quindi hai fatto l'Erasmus, in che università eri? Si chiamava semplicemente Università di Jönköping. La fanno facoltà, semplice. Sì. Sì, in inglese è semplice, mentre in svedese si chiama tipo Högskolan i Jönköping. Ah. Certo. Sì. Esatto, era quella. E la mia era facoltà di economia, quindi si chiamava GIPS, che sarebbe Jönköping International Business School. Come mai hai scelto Jönköping? Per caso erano finiti i posti per Barcellona? No, diciamo che la Spagna non l'ho proprio cercata. Io ho cercato di evitare mete scontate come famose capitali tipo Londra, Berlino, Madrid o città come Barcellona, eccetera. E ho puntato alla Scandinavia. Era indecisa tra il Tibet e Jönköping. Sì, esatto. E la Scandinavia mi ispirava. E in realtà alla fine dovevo andare o a Jönköping o a Rotterdam, ma sono stata scelta per la Svezia. Ma sei fatto bene, a noi piacciono le mete borderline. Sì, un pochino più sconosciute. E rispetto alle tue aspettative, com'è andata? Se ti chiediamo un bilancio. Direi bene, perché io sapevo da 4-5 anni che volevo fare l'Erasmus, da quando sono andata a trovare mia cugina a Berlino. Quindi era una cosa che ho sognato tanto, che avrei fatto ad ogni costo. E diciamo che è andata bene, è andata come mi aspettavo. A che anno di università l'hai fatto? Ero al primo semestre del terzo anno. Okay. Quindi sono ancora in triennale. Non sono un po' pochi 4 mesi per un Erasmus? Diciamo che dipende dalla città, perché 4 per mesi Jönköping sono sono anche troppi. Ecco, può essere, perché la città, no, ma guarda, la città è molto bella, però un anno, o meglio due semestri, che poi non è mai un anno, sono troppi per quella città. Però 4 mesi alla fine un semestre, cioè dopo un po' sei stanco e stare di più non valeva la pena, la gente se ne andava e quindi perdevi tutti. La gente che aveva prenotato 2 semestri se ne andava prima, tipo. No, c'è qualcuno che probabilmente ci ha pensato, ma ormai è andata. Ascolta, oltre ai nomi dei mobili IKEA, qualche altra parola di svedese l'hai imparata? Sì, avevo iniziato a fare un corso di svedese che non ho trovato poi così difficile, perché avevo già fatto tedesco e lo svedese deriva dal tedesco. Ah. quindi la grammatica è la stessa, le parole sono spesso simili, e però poi l'ho lasciato perché la simpaticissima Università di Ca' Foscari non me l'avrebbe riconosciuto, di conseguenza ho lasciato stare, ho dato precedenza agli esami che mi riconosceva. Ma l'avresti voluto fare, diciamo, per, tra virgolette, cultura per, me. Per te, no? Tant'è okay. Che infatti il libro l'ho tenuto e quando avrò voglia e tempo me lo studierò per me. Quindi hai imparato alla fine un po' di svedese, insomma. Sì, due cavolate, quello che serviva per dire sì, ciao, per il far vedere agli svedesi. Il tavolo. Sì. No, tipo io mi chiamo e queste cose qui. Ah, quindi il gatto è sotto il tavolo, non hai fatto no, niente. No, troppo difficile. Ok. No. Va bene, allora andiamo a ascoltare un pezzo di un classico artista svedese che si chiama Veronica Maggio. sì. Non so se l'ho pronunciato giusto, eh. No, più o meno pronuncia quella. Comunque, il titolo è Velkommen in, ha una chicca perché, vabbè, come avrete ben capito, insomma, lei ha un po' origini italiane e al suo interno c'è una chicca, un pezzo tratto dalla Canzone del Sole di Lucio Battisti. Confermi, Marta? Confermo. Allora, Veronica Maggio, Velkommen in. Eccoci in trasmissione con una puntata dedicata alla Svezia e all'Erasmus. Siamo qui con Marta, che adesso comincerà a parlarci della sua fantastica esperienza universitaria in questa piccola cittadina, ma come dire, con un cuore di panna. Vado. Beh, intanto all'inizio, insomma, l'accoglienza com'è stata? Allora, noi siamo arrivati più o meno tutti quanti negli stessi 2-3 giorni, perché erano i giorni fatti apposta per gli exchange student, in cui l'università forniva un servizio di portarci nelle accommodation che avevamo scelto, in macchina, con questi signoroni molto simpatici. Ok. E dopodiché è iniziata la kick-off week, che è la tipica settimana d'inizio, poi può durare anche meno, dipende dalla città, è la tipica settimana d'inizio della Svezia, perché fanno festa per dare un inizio, diciamo un calcio d'inizio appunto, all'anno accademico. E è una settimana, dicono che sia la settimana di festa, più festa che tu possa fare in Erasmus o comunque comunque all'interno dell'anno accademico per gli svedesi stessi. Cioè, festa all'interno dell'università? Diciamo che sono entrambi i tipi di attività, sia incontri dove ti portano a fare un tour della città, oppure ti spiegano, iniziano a introdurti al sito, queste cose qui. Più ogni giorno tu hai una festa a tema, una festa di... Bava. Quindi ti conviene divertirti là perché poi arriva la morte, tipo. Sì, diciamo che ti dicono fai il massimo adesso perché poi bisogna studiare. Poi arriva la kick-ass week. Speriamo di esatto. No. Va bene, quindi insomma hai fatto questa presentazione, tutti dicevano hello, this is Marta, ti presentavano, e come hai trovato appunto l'accoglienza? Cioè ti sei subito ambientata, insomma? Diciamo che questa settimana è stata fondamentale perché nel primo incontro che abbiamo fatto ci hanno detto partecipate a tutte le attività che vi propongono in questa settimana, perché vi assicuriamo che almeno un amico lo trovate e almeno una delle persone che conoscerete in questa settimana sarà per sempre con voi nel vostro Erasmus, nel vostro permanenza qui. Ed effettivamente è così. Durante tu la hai prima trovato settimana... il tuo amico? Tanti amici ho trovato. Troppi? No dai, non sono mai troppi gli amici. No, scherzo. Quindi insomma c'è proprio l'interesse all'università ad aiutarti. Okay. L'università ti segue in tutti gli aspetti. Anche con tutor, cose del genere? Sì, sì. Tu ti offrono, se vuoi, puoi avere tipo dei tutor che sono delle famiglie, ti aiutano a contattare anche delle famiglie svedesi. Io non l'ho fatto, però dei miei amici l'hanno fatto. Queste famiglie ti invitano a cena, ti portano a casa loro, ti mostrano cose che non vedresti da solo. Magari. E comunque a dispetto della, diciamo, grandezza della città, che non suggerirebbe un Erasmus particolarmente brillante, comunque è una città, ho letto, che la cui università è quasi specializzata in questa accoglienza di studenti stranieri, cioè tant'è in cui molti arrivano, no? Sì, esattamente, tant'è che ci sono studenti da Stoccolma e Göteborg, le città più vicine lì, che nonostante le università di Göteborg e Stoccolma siano migliori, vengono lì perché è più specializzata per una preparazione internazionale. Ah, ok. Sì, cioè, si respira un'area internazionale, studenti da tutte le parti, insomma, del mondo, quindi... Sì. E comunque conviene farci un Erasmus, no? Sì, sì, è perfetta per l'Erasmus, uh-huh, come città, in Svezia. Ascolta, ma parlavi di inserimento in famiglie, solamente, cioè, per l'alloggio, oppure... No, solo per una sorta di full immersion nella cultura svedese, ah, un attimino, okay, più vera. Ok, sì, spesso, no, l'Erasmus alla fine che, boh, non sa nulla di come sia in realtà la vita della nazione, esatto, in cui, il posto in cui si trova. Per l'alloggio, invece? Per l'alloggio, anche qui l'università ti segue moltissimo, perché dà la garanzia a tutti gli studenti exchange, se tu richiedi, di un alloggio. Ti danno una 8-9 accommodation, fra le quali tu scegli in base alle tue priorità, fai una lista. Poi, oddio, non è detto che tu vada dove tu hai scelto, perché fanno anche un po' quello che resta, però sicuramente una casa te la trovano. Tu ti sei fatta trovare la casa dall'università, oppure alla fine hai scelto qualcos'altro? No, ho scelto di farmela trovare da loro perché era molto più comodo. Sei soddisfatta degli alloggi? Moltissimo, sì, perché è bellissimo dove ero io. Invece pensavo che per mantenere la tradizione italiana avesse scelto autonomamente un bugigattolo senza certo, contratto d'affitto. Certo. Sì. No, perché io che faccio l'università in Italia, uno dei pochi mi sa fra un po', comunque ne do tipo gli studenti Erasmus che arrivano nella confusione, almeno nella mia università, e tipo cercano dei posti così. Cioè, c'è anche l'università che offre i posti proprio per gli stranieri, però devono un po' capire tutto da soli, non c'hanno un tutor che li segua più è di tanto. È una cosa che faccio anch'io a Ca' Foscari, mi hanno... Infatti tu sei più straniera a Ca' Foscari che a Young Shopping. No, è che perché a Ca' Foscari c'è un progetto che si chiama Meet a Mate, che appunto ti fa incontrare gli studenti stranieri che vengono qui, mm-hmm, ed è lo stesso motivo per cui io, quando sono andata lì, ho cercato una contact person all'interno dell'università lì, perché essendolo io qua a Venezia ho voluto, ah, okay, approfittare di questa cosa. Ah, ok, perfetto. E per quanto riguarda invece il sistema universitario, hai trovato differenze sostanziali rispetto al nostro? Ti sei trovata meglio? Sì, totalmente diverso, cioè le lezioni forse dipende sempre, come qui certe lezioni sono utili, altre no, e diciamo che i professori erano molto seri, molto disponibili, e c'era un rapporto molto più, insomma, non sei una matricola come magari sei a Ca' Foscari. Uh-huh. E una cosa stranissima era che tipo gli esami erano duravano tutti quanti dalle 3 alle 4-5 ore, non perché richiedessero così tante ore, ma perché loro lo vivono in modo diverso, cioè fare l'esame qui in Italia vuol dire fare l'esame e saperlo e farlo in un'ora, un'ora e mezza. Lì invece avevi tempo, cioè proprio facevi l'esercizio, ti guardavi in giro, mangiavi, facevi quello che volevi, andavi in bagno. Trovavi l'iPhone di nascosto? No, infatti, diciamo che tipo proprio perché gli esami durano poco qua da noi, non si può andare in bagno, è una cosa impossibile. Lì invece hanno le aule apposta e più anche il bagno all'interno dell'aula. Quindi tu libro in bagno? No, ma il bello è che gli svedesi, c'è il modello svedese, no? Gli svedesi non rubano, non barano, non fanno niente di tutto ciò. E ovviamente io non l'ho fatto. No, assolutamente. No, lo giuro. Però avevo un amico con le tazze è andato in bagno e si è letto tutto perché era troppo pazzo. Insomma, danno fiducia, quindi sono un po' lessi su queste cose. Quindi. Vabbè. A proposito di svedesi, prossima canzone di un gruppo sempre svedese, riserva belle tracce la scaletta musicale di questa puntata. Sì, anche perché sì. La Svezia comunque ha vari gruppi che sono rispettabili, che sono anche conosciuti in tutto il mondo. Sì. Insomma. Pensa che era il Natale, io ero circa alle medie e mi prendevo questo disco, me lo facevo regalare. E stavi anche per cambiare sponda. Sì, ero in quel momento lì. Sono gli Ark ovviamente con i Takes a Fool to Remain Sane. Tornato bambino con questa traccia, che bella. Abbiamo visto delle scene di Francesco. Fantastico, che... fantastico. Marta, quando ci siamo sentiti ci hai detto che è stata parecchio inaspettata per te la Svezia, eri ansiosa di comunicarcelo. Sì. Come mai? Diciamo che io ero partita con l'idea, vado in Svezia, vediamo un po' come sono questi svedesi. E io li pensavo molto simili ai tedeschi, un po' così, un po' chiusi, un po' timidi e tutto. In realtà loro si descrivono come noi siamo timidi e tutto quanto. In realtà, secondo me, non è assolutamente vero, non sono timidi. Tendono ad essere diffidenti, ma in realtà è solo perché hanno un po' di paura. Il mito loro è che quando sono ubriachi sono molto più socievoli, come tutti, però loro in particolare, quindi... Uh-huh. E il punto è che lì è tutto totalmente diverso, nel senso che mentre qui in Italia c'è maschilismo, lì c'è un femminismo quasi... Ma come qua in Italia maschile? Ma infatti che... Dai! Tutto bene qua in Italia. In particolare in Veneto. Ma dove? E, lì diciamo che non c'è un'azienda o un'associazione, una società in cui non ci sia capo una donna, sempre. Ok, metti un meno sulla Svezia. E è tutto stravolto, ad esempio anche la riporto tra le relazioni fra uomo e donna, tipo di solito sono le donne a provarci con gli uomini, mi hanno detto. Metti un più. Sì, lo so. E niente, sono diversi, non, ci sono certe cose tipo, ok, in Italia c'è il maschilismo, però allo stesso tempo c'è anche la galanteria. In Svezia non c'è maschilismo e non c'è nemmeno la galanteria. Quindi, ad esempio se tipo tu vai in Italia, ti aspetti che quando stai per entrare, non so, in biblioteca, c'è un ragazzo più o meno allo stesso tuo passo, o ti fa passare o ti apre la porta se arrivate assieme. In Svezia non esiste, quindi all'inizio ci rimane anche male, cioè tu arrivi, ti aspetti ovviamente che ti apra la porta o te la tenga, se ne sbattono altamente, non gliene frega niente, lo devono passare per primi, tu non sei nessuno per loro, cioè non c'entra che sei donna. Quindi anche una visione diversa. Sì, tutto diverso. Ah, va bene, sto riconsiderando il non maschilismo svedese. E invece sei arrivata qua col tuo bel netbook. Sì. Perché? Che ti è andato all'università? Perché, continuando col discorso che l'università ti segue in tutti gli aspetti, alla fine ci hanno fatto un incontro in cui ci hanno detto siete i benvenuti se volete tornare, ci hanno presentato vari progetti e tutto, e ci hanno dato una lista di 10 punti all'interno dei quali, se almeno in due ci riconosciamo, vuol dire che siamo almeno un po' svedesi anche noi. Alcuni di questi sono ad esempio che la prima cosa che fai quando entri in una banca, in un ufficio di poste o anche in una bigiotteria, qualsiasi tipo di negozio, devi prendere il ticket, perché sennò altrimenti non ti cagano, non gli interessa che tu voglia parlare con loro, devi comunque sempre prendere il ticket. Negozio vuoto, prendi il ticket? Sì. Non ti parlano, eh? Sì. Non ti parlano, non gli interessa. Ti girano dall'altra parte. Tu puoi stare lì 10 ore davanti, non gli interessa, devi avere il numero. Deve esserti capitato. Molte volte. I primi mesi. Oppure altre? In Svezia ci si toglie sempre le scarpe quando si entra in una casa, tant'è che durante la kick-off week, quando andavamo a feste a casa degli svedesi, tu entravi, aprivi la porta e vedevi tipo 30 paia di scarpe. E la cosa era un po' strana. Bello, te le toglievi, però, perché capivi subito quanta gente c'era. Esatto. Alla festa. Esatto. Era fantastico. Anche nei locali, passando in macchina già puoi. Sì, sì. Ma no, anche, nei locali anche no. A lezione vi fanno togliere le scarpe per curiosità. No, beh, oddio, ho visto in giro per l'università qualche svedese che tipo studiavano nelle stanze perse o corridoi in giro e camminavano scalzi, andavano in bagno. Se io mi tolgo le scarpe quando vado a lezione, tipo rimango solo io in classe, secondo me. Comunque, no, lì hanno una confidenza col pavimento. So bella questa confidenza col pavimento. No, ti guardano male se entri in casa loro con le scarpe, hanno così inammissibile. E oppure un altro in cui magari ti sei riconosciuta, ti sembri abbastanza svedese. Lei, sì, no? Oh, beh, vi dico questo. Allora, tipico degli svedesi è un break in cui appunto bevi il caffè, il loro caffè, che è una sorta di caffè americano, con un loro tipo una specie di brioche che si chiama cannelbule, che contiene la parola cannella, che è la cannella. Loro amano la cannella, la mettono anche nel caffè. Questa pausa per noi fa un po' ridere perché si chiama fika, si scrive F-I-K-A. Cavolo, io ho visto dei posti tipo, forse anche a Londra, con magari era questo, tipo caffetterie. Può essere. Tant'è che alle prime volte ci dicono, gli svedesi ci chiedevano andiamo a fare fika, e vabbè, per noi ragazzi era una cosa, per i miei amici italiani tipo sì sì andiamo a fare fika, tutti che bello, a ridacchiare e sfregarsi, sì, le mani tipo. Esatto. Sì sì, fika. Questo per loro, per gli svedesi, è un momento importantissimo e sacro, cioè se ad esempio all'interno di un orario lavorativo loro avevano la pausa fika, non potevi disturbarli, loro stavano facendo la loro pausa, non tornavano a lavoro per niente al mondo. La loro anche pausa, gli italiani quando c'è la pausa fica, non ce n'è per nessuno. Sì. Vabbè. No, infatti io volevo dirne un'altra, che Gianni Drudi parlava della Svezia, della sua famosa fichi fichi. No, basta, allora, basta. Io ho tentato di fare. Quanto siamo arrivati? A 2/3 di puntata? Sì, speriamo. Non ce l'ho fatta, no. Non fare la battuta stupida. Scusa, no, quindi insomma questa pausa sacra per loro. Sacra, e è per questo che anche delle volte ti fanno anche arrabbiare, perché tipo magari tu hai una necessità, può essere all'università così, ma lo stanno facendo la pausa, quindi... Quindi no, non si tocca, non si tocca. Ascolta, prima ci hai parlato... Ci ha detto che loro si ritengono i più simpatici del mondo quando sono ubriachi. Sì. E lì però la sbronza deve essere organizzata, altro punto, esatto, della tua lista. A causa del problema con l'alcol che aveva la Svezia, lo Stato ha comprato il monopolio di tutti gli alcolici e li ha eliminati dai supermercati, ha alzato i prezzi e li ha spostati in questi negozi che si chiamano Systembolaget, che sono specializzati, e, tipo la domenica sono chiusi, sabato chiudono alle 3, quindi insomma se tu devi andare a una festa sabato sera, e le feste Erasmus vuol dire andare con il sacchetto di birre, non andare in un bar, ok? Devi sapere che devi andare a farti la spesa sabato mattina, quindi era una cosa tipica. Ma tu hai trovato tanti ubriachi in giro durante le serate o... Sì, sì, era molto comune, anche gente di una certa età, magari quando siamo andati a vedere la partita di hockey, che è lo sport nazionale svedese, si raggiungeva lo stadio in autobus, erano strapieni e c'erano questi cinquantenni, poteva essere mio papà ad esempio, tutti ubriachi, tutti che andavano alla partita di hockey proprio presi male, cioè che non so nemmeno come abbiano fatto vedere la partita. E il problema dell'alcolismo poi forse non l'hanno risolto così bene, no? Persiste. E quanto la sicurezza per strada? Cioè come se la fa, come gestiscono sta cosa? Quello è... non guidano, credo che alzano molto anche i prezzi delle auto, così cercano di non farli guidare. No, credo che le strade non sono... non tutti guidano in Svezia, non è così comune trovare, non tutti hanno la patente come qui. Tendono magari a usare i trasporti pubblici, quindi autobus, eccetera. Avrei un'altra domanda, perché io ho sentito dire che in generale nei paesi scandinavi, anche in Norvegia, Svezia e Finlandia, quindi comunque c'è molta attenzione alla green economy e all'efficienza energetica e tutto quanto. Non so se poi insomma la cosa sia esagerata o meno dalle informazioni che arrivano qui, però tu hai notato appunto una maggiore attenzione all'ambiente e appunto al risparmio energetico per caso? Diciamo che è vero, sì. O ad esempio lavorano moltissimo con l'energia eolica, hanno tantissimi impianti eolici, anche perché appunto il meteo glielo permette, e sono forti anche nella raccolta differenziata ad esempio. Ok, quindi insomma hai visto che questa cosa è vera più o meno. Sì, sì. Va bene, vai Francesco, che stai sgomitando. Ma la presento io, visto che si parla di Young Shopping, che ci riserva anche una band tutta Young Shopiana, sì. Che si chiama però I'm From Barcelona. Gruppo indie di 29 elementi, sono mi sembra. I migliori, veramente. Infatti, sì. Non, che non riuscivano a dire di no quando uno gli chiedeva di entrare no, nel ma gruppo. E io li seguo anche su Facebook e hanno fatto un ultimo concerto in cui vi hanno scritto che sul palco erano in 48. Ah, ok. Non lo sanno neanche loro, non quanti so, sono, ospiti, probabilmente. Amici, non lo so. No, no, molto, molto fighi. Sì. Andiamo a sentirci Always Spring, credo sia l'ultimo disco, no? Sì. Be slow, I want somewhere to go home. I wanna be high, I wanna be low, I want it all, you know. I wanna be good, I wanna be bad, I need some satisfaction. I wanna be up, I wanna be down, I need a new direction. Ok, rieccoci qui dopo questa canzone molto gioiosa di questi 42 elementi, 29 dipende insomma dalle serate, e rieccoci tornati con Marta. Dunque Marta, tu sei rimasta sempre più o meno nello stesso posto? Hai avuto anche occasione di fare qualche viaggio? O l'università svedese ti ha riempito tutto il tempo e non ti ha lasciato tregua? Beh, diciamo che la prima cosa che impari quando vai in Erasmus è che ogni weekend che hai lo passi viaggiando, di solito, almeno se hai tempo e soldi. Soprattutto. E l'università ha un'associazione studentesca che organizza molti viaggi, fra cui alcuni peculiari che tu da solo non riusciresti a organizzarti. Il difetto è che sono abbastanza costosi, quindi io di questi non ne ho fatto neanche uno, perché erano uno era in Norvegia e quello l'ho fatto a parte. E uno era Kiruna, che è la città più a nord della Svezia, che è praticamente da Babbo Natale, e però quella costava tipo sui 500 euro per 5 giorni, non valeva la pena. Non c'erano comunque degli ausili dati dall'università per questi, per affrontare questi viaggi a livello economico? No, no, nessun tipo. Quindi per viaggiare cheap come si fa? Si noleggiano macchine, e si prende la macchina, si guida. Abbiamo fatto un viaggio in Norvegia di 5 giorni. Eravamo in 19, tutti di nazionalità diversa ovviamente, 4 macchine, siamo partiti e abbiamo fatto questa sfacchinata. Siamo partiti un giovedì sera guidando per 12 ore fino alle 8 di mattina. Come guidare per la Scandinavia? Diciamo che devi stare molto attento ai limiti. Ma soprattutto come fanno a tenere le strade? No, è una cosa che mi sono sempre chiesto, magari è una domanda stupida, ma come fanno a tenere le strade non ghiacciate in certi periodi? Beh, non lo so io purtroppo, perché quando sono andata io non era poi così freddo. Penso che semplicemente guidi in un modo prudente. Non sono comunque persone che corrono, gli svedesi, anche perché l'autostrada, il limite all'autostrada è 100, quindi insomma l'unica cosa a cui devi stare attento magari sono le renne e le alci che ti attraversano la strada. Ah no, pensavo che tipo fossero le renne a controllare la velocità, no, delle macchine, no, al posto degli autovelox. No, vabbè. È successo quando sono andata in Norvegia, appunto, è successo che due alci mi hanno attraversato la strada, quindi tipo ti fermi, le guardi giocare che si rincorrono, le saluti e vuoi tenere avanti. E poi sì, sono enormi e tu le guardi, speri che non ti saltino sulla macchina. Fantastico. Sì. La Norvegia invece mi sembra che non sia, forse ci prendono un po' in giro tra svedesi, sì, e norvegesi, no? Diciamo che è un mito degli svedesi prendere in giro i norvegesi, non so per quale motivo, anche perché c'è il campanilismo anche lì, vedi, non in Italia. Boh, so solo che della Norvegia l'ho vista perché ho visto Oslo, la capitale, Bergen, che è la città costiera, cioè abbiamo tagliato tutta la Norvegia. Una cosa che abbiamo capito subito è che è costosissima, e per un italiano andare in Erasmus lì secondo me è molto difficile. Cioè, è anche peggio che andare dove, sì, dove sei. Sì, cioè nel senso hanno la corona norvegese loro, e gli svedesi hanno la corona svedese. Fa conto che una cosa costa lo stesso numero di corone in Svezia e Norvegia, però in realtà le corone svedesi valgono meno. Quindi okay, quando una cosa dovrebbe costare 9 corone svedesi e 7 corone norvegesi, in realtà costa 9 corone norvegesi. Okay. Io sapevo che la Svezia è un po' più cara della Danimarca. Tu mi dici che la Norvegia è un po' più cara della Svezia, confermi questa scaletta? Sì, sì. Norvegia, però più trovi cose non lo so, più care, perché io la Danimarca l'ho visitata appunto all'interno di questo Erasmus. L'ho trovata costosa, però non so se è perché l'ho visitata da turista. Quindi, ma sì, spese parte. Bene, bene. 42 minuti più o meno. Aia, allora. Leviamo le tende, Checco. Leviamo le tende, dai, due contatti, giusto per rimanerci sempre vicini. In FM su 102.200 come sempre, oppure streaming sul sito della radio www.radiosandona.it. Il nostro blog curato dal già citato Marco, che è proprio sembra disteso in spiaggia. E si sta addormentando, sì, probabilmente. www.nowboardingradio.wordpress.com. Cosa manca da dire? La mail nowboarding@gmail.com. Marta, noi ci salutiamo, grazie per questa oretta. Grazie che a ci voi. Hai dedicato, e beh, dai, ci hai dato un'idea della Svezia un po' diversa, no, sì, squadra? Sì, beh, certo, alla fine insomma ci ha fatto vedere che anche loro vivono, sono vivi insomma, sì. Dietro quella coltre di freddezza, sì. Vivi belli e biondi. Ecco, belli e biondi soprattutto, abbiamo capito. È okay. Vero, fermo. Allora, andiamo con l'ultimo pezzo, che è di un gruppo ovviamente svedese, è un gruppo elettronico comunque secondo me validissimo, si chiamano i The Knife. Vanno sempre in giro con ste maschere strane, non si fanno mai vedere in volto, e la canzone si chiama Heartbeats. The Knife, il disco è Deep Cuts, io volevo dire che è sconsigliato agli autolesionisti questo disco qui. Alla prossima, ciao Marta, ciao Lorenzo. Ciao, ciao a tutti. Ciao.